Ma quante dita c'ha una mano, quante dita, ma quante dita c'ha il piedino, quante dita, ma quante dita c'ha una mano, quante dita, ma quante dita c'ha il piedino, quante dita. Il primo è il pollicione, che è quello di Papone, è grosso e fa schiattare, è buono da ciucciare. Poi c'è il dito indice, che si sente un principe, si crede il più importante, ma non è vero niente. Ma quante dita c'ha una mano, quante dita, ma quante dita c'ha il piedino, quante dita, ma quante dita c'ha una mano, quante dita, ma quante dita c'ha il piedino, quante dita. Il medio è lungo assai ed è proprio un cerca guai, non facciamolo arrabbiare che diventa assai volgare. Poi c'è l'anulare, buon partito da sposare, è ricco sfondato ed è molto più educato. Ma quante dita c'ha una mano, quante dita, ma quante dita c'ha il piedino, quante dita, ma quante dita c'ha una mano, quante dita, ma quante dita c'ha il piedino, quante dita. E l'ultimo ditino si chiama Mignolino, è il più piccolino e me lo ficco nel nasino. Ma quante dita c'ha una mano, quante dita, ma quante dita c'ha il piedino, quante dita, ma quante dita c'ha una mano, quante dita, ma quante dita c'ha il piedino, quante dita.